ritorna con noi dopo Halloween for President, lui il presidente di tutti i DJ italiani, DJ Mario Bio. E non sarà da solo, perché la voce guida di questa notte, For All Night, lui, Lady Brian. Continuavano a raccontarmi quella solita storia. Mi raccontavano di un posto incantato. 100.000 colori, arte in movimento, sta suonando Mario! Non c'è nessuno che batte le mani al ritmo, Kama Sutra! La vogliamo cominciare questa notte, Kama Sutra! E allora iniziamo anche con il presentarvi l'animation team del Kama Sutra. Sono sempre con noi every night a vivere la musica. Angeli o diavoli, paradiso o inferno, utopia, animation group, Deborah, Clara e Moreno. Vogliamo vergini e le trasformiamo in puttane. Kama Sutra. Es noche de puta madre, es noche de puta madre, es noche. all for you tonight. It's electronic one night. DJ Mario Pure, Lady Raya. Piccadilly Circus Soho. Signori, questa notte in Kama Sutra sta suonando International DJ from Metem Psicosi, suona Mario Piu Piu. vi ricordo lo speciale sabato prossimo, il Kama Sutra. Festeggeremo il compleanno di Sua Maestà Ricky Leroy, ad accompagnarlo in questo felice compleanno. Sicuramente in Kama Sutra ci saranno Christy J, Marzio Dance, doppia voce Franchino e Lady Brian. Ce lo portano via gli americani, non ce lo portano via gli americani. DJ Internazionale, vorrei vedere tutte le mani al cielo per Mario, Mario Più. Non ce lo portano via gli americani. Un saluto agli amici dell'ambasciata, a Julie Sleep. Non lo so, continuava a dirmi sempre le solite cose. Non lo so, ripeteva sempre i soliti discorsi. Mi parlava di musica, di colori, di corpi, movimenti. Ma non lo so cos'era. Mi appariva ogni sabato notte in sogno. Mi dicevano internazionale, mi dicevano ti fa ballare. Mi dicevano un sacco di cose, un sacco di cose. Continuavano a dirmi sempre un sacco di cose. E continuavano a dirmi guarda che è internazionale. E continuavano a dirmi se possibile fai alzare le mani al cielo! Da destra a sinistra tutte le mani in Kamasutra si alzano al cielo. Siamo lieti di presentarvi Supercast DJ Mario Più! Il tuo telefono è sotto controllo. Il nostro telefono è sotto controllo. Senza di controllo. Gone, lady, he is dead and gone. At his head, a grass green turf. At his heels, a stone. Oh. Jessica in console, ripeto, Jessica in console, urgentemente. Solitamente la gente batteva le mani, quelle cazzo di mani! Non sarete mica stanchi! Vogliose! Vergini! Vogliose vergine. Yeah, you want your sex now without sound. Everybody is looking for something. Happy birthday Alessio! Tanti auguri ad Alessio Kamasutra! E continuava a ripetere le solite ossessive cose. Vogliose squadrine, vergini, vogliose squadrine. contatto, contatto, acquisizione, segnale, impatto, contatto, acquisizione del segnale, impatto, contatto, acquisizione del segnale, impatto, contatto, acquisizione del segnale, impatto, contatto, acquisizione del segnale. Oh! Sì! Un saluto ad Antonella e Arianna. Acquisizione, contatto, impatto, acquisizione, contatto, impatto. Un saluto a Chris Power. Un saluto alla Cessi, la Chioggia.